Penso che sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e ne cominciavo a volare nel cielo infinito. Stare lassù e volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre un mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi e belli, che sogno blu come un cielo tra puntoni stelle. Volare, cantare, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Sogno così non ritorni mai più.